Attori che ha preso sul serio l'impostazione metodologica del convegno, cioè dire che non dovevano essere relazioni, ma degli spunti per la discussione. Lo dico a mio demerito, non a mio merito, nel senso che le relazioni che abbiamo ascoltato credo siano state estremamente piene e complete nei loro panorami, mentre la mia si limita ad alcuni spunti, sia per difetto mio di tempo, perché evidentemente per parlare sul serio di questi problemi avrei dovuto applicarmi molta più diligenza e molto più spazio, sia anche perché lo stato degli studi sul problema delle istituzioni ecclesiastiche e del loro rapporto con la società italiana è ancora, se, a mio avviso, ad uno stato embrionale. Ecco, che non permette assolutamente di avanzare delle ipotesi che abbiano un minimo contenuto di certezza. Basta guardare i saggi della storia Einaudi per vedere come nella storia religiosa l'aspetto istituzionale non sia assolutamente presente. Come quelle ipotesi di lavoro per le metodologie avanzate dalle Brasi in Francia, eccetera, non abbiano trovato in Italia ancora, almeno per quanto riguarda i secoli della vita moderna, che alcune poche espressioni, forse più nell'Italia meridionale che in quella centro-settentrionale, che è quella che ci interessa, ed estremamente limitate ancora nei loro risultati. Mario Rosa ha sollecitato molto frequentemente questa carenza nelle sue varie rassegne sulle strutture diocesane, sulle parrocchie, sugli ordini religiosi, quindi su questo non mi dilungo. È certo che è una carenza che blocca gran parte dei nostri discorsi e che deve essere probabilmente collegata anche a quella che è in Italia l'organizzazione della ricerca, ma qui il discorso ci porterebbe troppo lontano perché il nostro modo di lavorare artigianale e questo convegno dovrebbe essere in qualche modo una certa reazione, almeno volontaristica, a questo modo di lavorare, aprono dei discorsi che probabilmente è meglio casomai fare a tavola. Basta guardare per esempio un libro come Il Ventura, per nobili e popolo, eccetera, per vedere come nel tutto il problema dell'evoluzione della società veneta tra 4 e 500 il problema ecclesiastico non venga assolutamente citato, per dire un esempio di una delle opere più fertili e più suggestive che sono state fatte negli ultimi decenni sui temi che ci interessano. Da questo punto di vista vorrei aprire il discorso con alcune pagine, con la citazione di alcune pagine di una vecchia opera sulla disciplina, sull'antica e nuova disciplina della Chiesa, scritta alla fine del Cinquecento da Thomassin, un'opera in 7 tomi, eccetera, e che io considero sempre una cosa abbastanza capitale perché è una storia istituzionale della Chiesa, che esce per la prima volta dagli schemi giuridici e pone dei panorami di una novità a volte sconcertante, poi appunto pensando che è stata scritta nel 600. E in quest'opera il Thomassin, nel capitolo 104 della seconda parte, libro primo, del quarto tomo, ecco, parla del fatto di perché i nobili abbiano un largo posto, più di quanto non dovrebbero avere come consistenza numerica nell'ambito della gerarchia ecclesiastica. Parte constatando che una bolla di Clemente VII del 1532, dunque in piena, ormai diciamo in piena età moderna, confermava al capitolo della cattedrale di Lione il privilegio di non conferire le 32 prebende di cui il capitolo disponeva se non a nobili. E dice, questo va spiegato storicamente, perché nel 1245, alcuni secoli prima, in quella chiesa di Lione, su 74 canonici c'era un figlio di un imperatore, 9 figli di re, 14 di duchi, 30 di conti e 20 di baroni. Questa era la situazione del capitolo della chiesa di Lione nel 1245. E lui continua da questo e dice, del resto, questo è, appunto, ha una spiegazione storica, una spiegazione umana, ma non, diciamo, carnale, dice. Si è avuto riguardo alla protezione che la Chiesa riceveva dai nobili o che ella aveva già ricevuto dai loro antenati. Si è considerato che l'educazione dei nobili era ordinariamente più virtuosa che quella dei roturier, soprattutto al tempo in cui furono fatti questi statuti, quando questi usi cominciarono ad aver corso. I roturier erano allora presque tutti serfs, erano quasi tutti servi. Ecco, infine i nobili come persone potenti erano le più adatte a coinvolgere anche gli altri nell'imitazione e nella devozione. E lui continua l'asi dicendo che in realtà questo per la Germania e per la Polonia vale ancora, cioè i capitoli cattedrali o le grandi dignità ecclesiastiche delle chiese di Germania e di Polonia sono ancora legate al vecchio ordine nobiliare. Per la Francia però il caso di Lione è un caso isolato, in realtà non è più così, non è più così perché è mutato il clima politico. Mentre appunto in Germania e in Polonia, per motivi sia di difesa sia di potere conservato dalle aristocrazie, eccetera, questo è venuto, in Francia in realtà la situazione si è sviluppata in modo tale che quelli che un tempo erano i roturier sono diventati gran parte del governo pubblico e diventando anche parte del governo pubblico hanno avuto accesso alle più alte cariche ecclesiastiche. Adesso io vi risparmio i particolari di questo discorso, insomma, ecco, che trovo qui nel concordato di Leone X con Francesco I il suo compimento, insomma, ecco. Ma la sostanza appunto del discorso è questo, insomma, ecco. Cioè che attraverso il servizio dello Stato, attraverso gli studi, in Francia la situazione si è radicalmente mutata rispetto ai paesi confinanti per quanto riguarda l'accesso alle altre case, alle altre cariche ecclesiastiche. Dice, un tempo studiavano solo i nobili, adesso invece studiano anche i roturier. Un tempo tutte le magistrature erano per i nobili, i nobili soli componevano gli stati generali e i parlamenti con il clero, ma da 300 o 400 anni a questa parte, e solo 300 o 400 anni a questa parte, il terzo stato è stato ammesso. Sono soltanto 200 anni che i roturier sono stati ricevuti nelle cariche pubbliche. Non bisogna quindi meravigliarsi se le prebende e le dignità ecclesiastiche non erano accordate che ai nobili. Ecco. Ora non rimane che un piccolo numero di capitoli, come quello di Lione, di Brude, eccetera, dove sono rimaste le marche dell'antichità. Quindi questi marche, queste caratteristiche antiquate che davano l'esclusione a tutti coloro che non erano nobili. Questo discorso mi pare estremamente importante anche per l'Italia, cambiando naturalmente il quadro. Il cardine del discorso mi pare sta in questo, nella coscienza del nuovo potere monarchico che si è sviluppato in Francia e che condiziona tutto il rapporto della Chiesa con la nuova classe dirigente, la quale è una formula, appartiene a una cosa già complessa che non è definibile né nella nobiltà né nelle roturie, ma è qualcosa di misto e quindi la gerarchia ecclesiastica si è dovuta adeguare a questo qua. Qui io ho inserito, ma adesso taglio tutto perché è troppo tardi, una riflessione ancora introduttiva rispetto al problema del del superamento del conciliarismo nel 400 mediante la politica concordataria e quindi del nuovo rapporto che si viene instaurando tra papato e i nuovi stati, con lo svuotamento del potere delle chiese locali a favore della nascita di rapporti diretti tra papato e stati, che trovano poi nei denunziatori la loro espressione dal punto di vista della prassi quotidiana del potere, con svuotamento quindi di tutte le strutture intermedie delle chiese metropolitiche, delle province ecclesiastiche, che invece non determinavano l'ossatura precedente. In questo quadro anche la riforma cattolica e la controriforma, mi limito appunto per la fretta a denunciare questo tema, non significano in nessun modo, nonostante tutte le velleità, un ritorno alle primitive forme di rapporto col potere politico, ma rappresentano sostanzialmente un'accettazione del nuovo quadro di accentramento del potere, nonostante poi ci siano battaglie di retroguardie. Basta pensare alla bolla in cena domini, eccetera, per certi aspetti dell'immunità ecclesiastica. Anche la riforma dei principi, nella sua discussione del Concilio di Trento, di cui abbiamo discusso qui in settembre, è un'altra testimonianza di questa accettazione completa, in realtà, dei nuovi rapporti di potere. Cioè non si ritorna agli equilibri medievali, ma si accettano quelle che sono i nuovi equilibri, pur non mancando appunto le linee di frizione o le battaglie di retroguardia. Così pure non parlo del problema degli ordini religiosi, dell'evoluzione degli ordini religiosi, che arriva proprio in quest'età, ed è estremamente importante però almeno accennarlo, a configurarsi come, secondo il linguaggio odierno, io direi una chiesa parallela alla chiesa diocesana. Ecco, perché la bolla Mare Magnum appunto è della fine del 400, con le grandi esenzioni concesse agli ordini religiosi, si passa dall'organizzazione monastica degli antichi ordini all'organizzazione congregazionale degli stessi ordini, nascono i nuovi ordini accentrati. Soltanto nell'ambito di queste constatazioni ben note a tutti, vorrei notare questo, che nell'Italia settentrionale noi abbiamo un elemento che andrebbe studiato più a fondo in senso diverso, cioè il tentativo condotto avanti da Carlo Borromeo e da altri di creare istituti religiosi all'interno delle strutture diocesane. Anche qui un solo accenno, mi riferisco agli Oblati di Milano, altri esempi forse si potrebbero fare. Ecco, non si possono trascurare, di fronte a quello che Rosa e altri hanno detto rispetto alla situazione dell'Italia meridionale, in cui hanno ragione, tentativi invece nell'Italia settentrionale, tentativi robusti, insomma, della creazione di esperienze che trovano o tentano, insomma, di appunto agganciare la tematica più propriamente religiosa dei voti specifici, degli stati di perfezione, come si direbbe, alla chiesa locale, ma sono indubbiamente tentativi che conservano il loro interesse limitatamente ad alcuni luoghi e ad alcuni rapporti cittadini. Quali sono i punti centrali di questo, della trasformazione all'interno delle istituzioni ecclesiastiche portate dal nuovo equilibrio, dai nuovi rapporti nati tra 4 e 5 secoli? Appunto, qui mi scuso ancora se veramente salterò molte cose e sono estremamente sintetico. Un primo problema che ci si pone è il passaggio dal regime elettorale al regime di nomina nei grandi e piccoli benefici ecclesiastici. E questa è una delle evoluzioni più importanti che coinvolge veramente tutta l'Italia settentrionale, sia nel suo tessuto cittadino che nel suo tessuto agricolo. Sono note le ricerche del Sorbelli sulla parrocchia nell'Appennino tosco-emiliano, dove la constatazione della prevalere del sistema elettorale da parte dei dominus della parrocchia del proprio parroco fino al secolo XI o XII, e più recentemente c'è il grosso saggio, enorme saggio di Curze, Fare Valene Mittelalter, che dedica largo spazio a quella che era l'elezione dei parroci dell'Italia settentrionale nel Medioevo. La sostanza del discorso è un po' questo, insomma, cioè che mentre fino al secolo XI, XII non si può parlare ancora di diritto di patronato, ma il sistema elettorale è conducibile, collegabile alle tradizioni della cristianità antica o in qualche modo anche all'istituto germanico della Genossenschaft, dal secolo XII in poi invece noi abbiamo lo spezzarsi di questo sistema con l'introduzione da una parte di un maggiore influsso dei chierici, del vescovo, delle nomine dall'alto, diciamo, dell'apparato ecclesiastico, e dall'altro del diritto di patronato che si inserisce come elemento in qualche modo esterno in cui si configura già un dualismo tra la parte laica e la parte ecclesiastica all'interno delle strutture. Anche qui sono costretto a sorvolare molte cose, insomma, ecco. Certo è che io credo che si possa intravedere una continuità dai primi interventi comunali nell'ambito della disciplina ecclesiastica alla più pesante e continua protezione data alle strutture ecclesiastiche dai nuovi signori, dai principi che nascono dalla crisi comunale nelle vari stati dell'Italia settentrionale. Ecco, cioè in Italia credo che abbiamo un grosso anticipo proprio anche rispetto alle osservazioni che faceva il Thomasin alla stessa Francia, insomma, ecco, per quanto riguarda l'affermazione del potere laico nei riguardi dell'istituzione ecclesiastica. Forse il fenomeno si può vedere più occhio nudo per Venezia, dove la continuità dal punto di vista istituzionale permette di vedere nella legislazione stessa, dalla fine del 300 a tutto il 400, il primo stabilirsi delle prove del Senato per coloro che dovevano accedere ai benefici ecclesiastici, eccetera, la fase di espansione e di perfezionamento di questi processi di intervento. Da una parte, d'altra parte, in Italia il sistema delle elezioni viene già minato alla radice a partire dal secolo XIII e soprattutto dal XIV dagli interventi del papato che con le riserve, le aspettative, eccetera, estende a macchia d'olio il suo potere su vaste zone delle chiese dell'Italia, delle chiese metropolitiche, delle province ecclesiastiche dell'Italia settentrionale. E noi troviamo questo fatto, cioè che dal secolo XIV, appunto, in particolare dopo la crisi dello scisma d'Occidente e della crisi conciliaristica, queste riserve papali si coniugano sempre di più con l'espansione dei poteri dei singoli stati. In modo assolutamente empirico, come ha detto Prosperi per gli stati della Padania, specialmente con la contrattazione caso per caso, cioè dal sistema antico dell'elezione dei vescovi da parte dei capitoli, eccetera, eccetera, si passa ad un sistema di nomina che è empiricamente contrattato caso per caso o che trova il suo sbocco dal punto di vista dei trattati internazionali, appunto con i primi concordati o con la concessione praticamente uguale degli indulti. Ricordiamo l'indulto concesso a Francesco Sforza per Milano nel 450, l'indulto alla Savoia del 452, il trattato con Venezia del 451, con Genova del 453, cioè anche una tale coincidenza di date che ci fa capire in modo prevalente come avviene intorno alla metà del 400 questa ricerca di un nuovo equilibrio tra il papato, e l'Italia che comincia a diventare come una zona abbastanza particolare e nettamente distinta dalle regioni d'oltralpe. Qui occorrerebbe probabilmente fare un raffronto tra i concordati italiani e quelli con i principi tedeschi, insomma. Proprio perché oltralpe il potere delle aristocrazie nobiliari e cittadine è ancora talmente forte che porta a una situazione del tutto diversa da quella italiana. Pensiamo ai conflitti tra il capitolo cattedrale di Augsburg e la borghesia cittadina nella seconda metà del 400 ancora, ma questo si può, credo, dire per molti casi. Trento naturalmente rappresenterebbe una zona più agganciata al mondo tedesco che alla situazione italiana, ma anche su questo non entriamo, ma è certo che per molti aspetti io credo che appunto Trento possa rientrare, e qui sarebbe interessante vedere appunto una storia concreta del capitolo della cattedrale di Trento dal 4 e il 500, quando si definisce la sua composizione anche etnica e si aprono poi nel 600 le controversie tra il capitolo stesso e l'arcivescovo. Ma questo, dico, lo lasciamo da parte nella misura in cui ritengo, ecco, che Trento sia più vicina alla situazione d'oltralpe che è nostra. In sostanza, io ritornerei all'osservazione di Thomassen, cioè in realtà in Italia cos'è avvenuto? Che ancor prima che in Francia, i roturier sostanzialmente, indicando con questo così un'espressione più vasta possibile, insomma, ecco, hanno avuto un processo di promozione sociale all'interno della società comunale e di quella signorile poi, che ha sconvolto, appunto, ha portato una situazione nuova rispetto a quella precedente. Naturalmente questo è connesso con il tema centrale, che non tocca a me sviluppare, della mobilità sociale nel Rinascimento. Io credo di aderire alla tesi del Delumeau che il Rinascimento abbia rafforzato le strutture sociali anteriore, introducendo nella nobiltà coloro che aspiravano ad entrarvi per le loro fortune, facendo soltanto, come è stato detto, appunto delle regolamentazioni di accesso, insomma, ecco, ma non certo degli sbarramenti, insomma, ecco. Perché in sostanza è la borghesia che assume i valori della nobiltà ed entra proprio all'interno di quei valori, è venuto fuori anche molto bene da tutte le relazioni che abbiamo sentito stamattina della classe dirigente precedentemente, mentre soltanto alla fine del XVII secolo, dice Delumeau, che appunto le barriere diventeranno talmente forti, si chiuderanno le pluriatie, l'ascesa della borghesia sarà bloccata e così si acquisterà significa la contrapposizione di classi. Per quanto riguarda le strutture ecclesiastiche, occorre appunto da questo, credo, trarre delle conclusioni per studiare come e in che modo i favori del principe da una parte o la carriera curiale burocratica romana dall'altra siano state attraverso il 4 e 500 il principale veicolo di una mobilità sociale in funzione della nobiltà. Qui mi accorgo, no, vado fuori completamente. Benissimo. Abbiamo un quarto della verità. Sì. Mancano completamente gli studi, naturalmente per l'Italia, sulla provenienza sociale dell'alto clero. Abbiamo soltanto i sondaggi che ci ha dato Rosa sul 700, però in un'età che è ormai al termine del periodo che qui si interessa. Non sono stati fatti studi come sono stati fatti per la Francia, dalla Eberstein, sulla provenienza dell'episcopato a cavallo dei regni di Luigi XII e di Francesco I, cioè a cavallo del concordato del 1516. Occorre dire però che, pur nella sua importanza, questo concordato del 16, che riconosce al re il diritto di proposta di candidati a circa 114 episcopati e a 800 abbazie, quindi che dà in mano al re di Francia la nomina di tutto l'alto clero del regno, si dimostra però, da questi studi dell'Edelstein, che la prevalenza nobiliare continua sia prima che dopo il concordato, pressa poco nelle stesse distribuzioni tra la nobiltà del Pe e la nobiltà d'Europa. Ecco, non c'è una grande variazione. Invece la variante deriva proprio dalla funzione del candidati all'interno del servizio alla monarchia. E questo credo che è la cosa più importante da studiare. Per questo credo che la cosa più importante da fare, che non credo che esistano studi, eccetera, se non sarei grato di suggerimenti, è anche quella certamente di studiare l'estrazione sociale dell'alto clero nell'Italia settentrionale, ma soprattutto di coniugare questo studio con i dati sulla formazione intellettuale e sulle funzioni svolte al servizio del principe o della curia romana. Quindi, fra le cose, credo, più importanti sarebbero le ricostruzioni di una serie di carriere in cui si possono concretare le intuizioni che si sono avute in questi ultimi decenni. E qui si potrebbe anche parlare dell'importanza delle biografie viste in un certo modo. Ecco, le intuizioni finora ci sono state solo sul piano della cultura, più che altro. Basta pensare alle osservazioni di Cantimori e di Dionisotti sul decardinulato di Paolo Cortese, visto come appunto un manuale dell'aristocrazia ecclesiastica parallela all'esaltazione dell'aristocrazia laica del cortigiano del Castiglione. Come sapete, era stato progettato come specchio della vita di un principe, poi dopo la sconfitta del Valentino nell'impresa di Romagna, viene fatto come modello, come specchio della vita del cardinale, ma lasciando inalterata la struttura, e anche questo è abbastanza interessante. È interessante poi tutto questo, dovrebbe essere calato, appunto come dicevo, nelle vite concrete, perché? Perché non si tratta di modelli astratti. Il 60% dei cardinali nell'anno 1500 è di origine italiana e in gran parte centro-settentrionale. Alla fine del secolo questa percentuale è addirittura dell'80%. Ecco, quindi dietro questi modelli ci sta davvero, insomma, la formazione. Così pure altre cose si potrebbero dire in modo diverso, ma abbastanza interessante, sul modello del vescovo, oltre che del cardinale. Abbiamo lo studio di Iedin, che è noto sul problema del modello ideale del vescovo nella riforma cattolica. Bisogna concretarlo al di là degli studi della Fragnito sul trattato di Contarini, il quale poi, tra parentesi, non a caso studia parallelamente l'ufficio episcopale e la magistratura veneta, ecco, invece la situazione concreta del governo pastorale delle diocesi. Certo, appunto, nella seconda metà del secolo noi assistiamo a una congiunzione tra il modello che chiamerei cortigiano burocratico della prima metà del secolo con il nuovo ideale pastorale che è derivato dal Concilio di Trento. Il Concilio di Trento affronta il problema delle elezioni episcopali. Qui c'è un recente studio di uno storico americano, Trisco, su questo tema delle discussioni. Ma si guarda bene dal ritornare alla proposta di eleggere i vescovi da parte dei capitoli. Si fanno soltanto raccomandazioni sulle idoneità, si stabiliscono le norme per il processo di controllo dell'idoneità stessa da parte di Roma, il processo inquisitorio de vita et moribus, però non si riaffaccia per nulla la possibilità, nelle discussioni sì, ma nella conclusione dei decreti trentini, la possibilità di un ritorno a una partecipazione di tipo elettorale dei capitoli cattedrali o nei benefici interiori del clima. Ecco, come spaccato di biografia abbiamo soltanto quello di Alberico per i vescovi che hanno partecipato alla prima fase del concilio, come è noto, per il resto non credo ci possa essere niente. Importante sarebbe poi il problema dello studio non solo della carriera burocratica ma anche della formazione culturale. Il Tommaseni in un altro capitolo della sua opera dice che come prima di Trento i vescovi prendevano i personaggi più influenti a cui far carriera nelle diocesi dalle università, dopo il Concilio di Trento questi personaggi sono presi dai seminari. Quindi c'è tutto il tema dell'importanza dei seminari che Rosa, sulla base dell'esperienza del Sud Italia, svaluta molto. Nel Nord Italia mi pare che questa svalutazione non ci possa essere, cioè i seminari hanno avuto un ruolo di primo piano, anche se la proposizione dello stesso Tommaseni, quando parla dei seminari di Carlo Borromeo, mi pare un po' esagerata. Ha una frase abbastanza interessante, lui dice: «Comme les universités, oltre quale seminaire, d'où les évêques tirés, tous les meilleurs ouvriers et les bénéficiaires de leur diocèse, aussi peut-on dire que, depuis le Concile de Trent, les séminaires qu'on a établis par son ordre sont comme des petites universités». C'è questo rovesciamento del rapporto tra università e seminari. Lascia a voi pensare quello che questo vuol dire per la cultura italiana dei secoli successivi, cioè di chiudersi nei seminari ecclesiastici della formazione del ceto dirigente ecclesiastico, lo sbando dell'università con la scissione completa tra vita civile e vita religiosa, il cambiamento di modelli culturali che questo comporta. Il centro era un po' di quello che volevo dire, era un po' il capitolo sul sistema beneficale. Beneficiare. E allora io continuo 5 minuti su questo, poi il resto invece dopo poi lo lasciamo. No, lasciamo la discussione. Cosa c'è? I passi più importanti che sono stati fatti proprio per merito di Chittolini, di Stumpe, eccetera, in questi anni riguardano il problema della proprietà ecclesiastica. Io cosa volevo aggiungere soltanto a queste cose che sono state dette, credo estremamente, in modo estremamente acuto e giusto, sulla crisi della proprietà ecclesiastica attraverso i sistemi sia delle alienazioni pure semplici, sia delle investiture perpetue che dell'usurpazione di fatto, eccetera. Io volevo solo dire che questo va inserito, ipotesi sono state già avanzate da questi studiosi, sia nel sistema politico, sia nel sistema complessivo, giuridico, beneficiale della Chiesa. Per quanto riguarda il sistema politico, io vorrei dire solo questo, che non si tratta soltanto di un'appropriazione di terre e di rendite da parte dei cortigiani, dei protetti del principe, ma di un uso del sistema beneficiale per l'affermazione di un nuovo potere sovrano nel lento passaggio che porta alla formazione del corpo burocratico come corpo a sé stante dello Stato moderno. Cioè il sistema beneficiale tipico della struttura ecclesiastica non viene solo, il principe non se ne impadronisce soltanto dall'esterno così per assegnare, ma ne fa uno strumento sia per il compenso dei funzionari cortigiani, ma ancor più come sistema ecclesiastico adottato dallo Stato per un primo strumento di formazione del corpo burocratico. Ecco, questa è una cosa che mi sembra abbastanza interessante e che Chabot stesso, del resto nel suo studio sullo Stato di Milano, aveva accennato, mi sembra. A dominare gli spiriti restava invece ancora la vecchia concezione cavalleresca, concezione che anzi accentuava il suo carattere individualistico, dice. Proprio in quel periodo in cui, ingaggiata dai sovrani, la lotta contro la nobiltà feudale come casta, contro i grandi come ceto fornito di prerogative e privilegi comuni, la stessa azione del monarca era rivolta a disintegrare la coscienza di ceto dei suoi nobili per stabilire invece il rapporto puramente personale del beneficiato con il suo signore. A spezzare una casta per trarne fuori personalità singole che non avessero altro fondamento della loro gloria e ricchezza che il buon volere del principe. A me sembra che sia abbastanza importante, anche dal punto di vista politico, l'inserzione della metodologia del beneficio ecclesiastico in questo senso. Un secondo punto invece è l'inserzione di questo processo all'interno, dicevo, del sistema beneficiario nel suo insieme, e qui oltre a un discorso sulla commenda che andrebbe fatta, ma qui non c'è tempo di fare, vorrei almeno accennare, e poi ho finito, al discorso sul giuspatronato, perché il giuspatronato proprio nato dottrinalmente, affermatosi tra il XII e il XIII secolo, in quel superamento della fase, diciamo, puramente elettorale di cui abbiamo parlato prima, diritto legato alle maggiori famiglie in base alla fondazione, alla donazione di patrimoni alle chiese, relativo alla nomina dei titolari dei benefici stessi, acquista un'importanza molto molto grande, insomma, non la diminuisce in quest'epoca che noi esaminiamo. Quindi non c'è soltanto appunto il problema della proprietà ecclesiastica all'interno della sua alienazione, della sua crisi, ma c'è il problema anche di questo anello di congiunzione che viene a esserci tra sistema ecclesiastico ed aristocrazia, che è costituito dal giuspatronato. Del giuspatronato laico, sostanzialmente, perché esiste anche un giuspatronato ecclesiastico legato ai capitoli delle cattedrali e monastici. Ora, questo è il punto, cioè il giuspatronato non viene soppresso dalla riforma tridentina, anche qui si fanno soltanto delle delibere di moralizzazione, di controllo sull'idoneità dei candidati presentati dai patroni, ma non si tocca il sistema del patronato in se stesso, che rimane uno dei cardini della vita ecclesiastica di tutta l'Italia centro-settentrionale, come lo stesso Rosa poi ha sottolineato, contrariamente all'Italia meridionale, che non conosce questo sviluppo dell'istituto del patronato laico. Quindi diventa di un adattamento del sistema del patronato alla nuova fase di consolidamento del ceto aristocratico, che proprio nella sistemazione patrimoniale interna deve occuparsi anche del consolidamento tramite la sistemazione dei propri figli cadetti, preoccuparsi dell'unità del patrimonio familiare, e ha certe forme di compenso anche in questa direzione alla rinuncia ad ogni sviluppo di mete di tipo signorile, insomma, ecco, di tipo politico in senso specifico, insomma, almeno questo fino a quando nel Settecento il problema della proprietà ecclesiastica non riesploderà ancora in altri termini. Un altro un tema che è stato accennato prima e che è importante, credo, rispetto a questo sistema è quello del coinvolgimento dell'Italia centro-settentrionale, del ceto dirigente, nel sistema finanziario della Curia Romana. È un sistema che coinvolge sia dal punto di vista culturale, giuridico, e qui ho posto una certa parte in cui volevo parlare del sistema giuridico, e dal punto di vista economico. Noi basta pensare alle grandi famiglie pontificio cardinalizie del Seicento, che sono tutte legate a grandi patrimoni del secolo precedente, insomma, i chimici e compagni. E credo su questo appunto ci sarebbe anche molto da dire. Credo, ecco, che proprio anche questa partecipazione finanziaria possa essere interessante se scorsa appunto attraverso la strada dell'esame delle carriere prelatizie e dell'ingresso attraverso questa strada di grandi famiglie borghesi nell'aristocrazia italiana. Credo che anche su questo ci sia un po' tutto da scrivere. Quindi...